venuta e quest'alma di partir da rintugio non attendo che morte. Tu partir, o Roberto, da questa reggia ove il tuo cor mi lasci ed onde il mio timbor? Una regina e moglie che non me può voler veder nei pianti, ascoltare nei sospiri. L'alba crudel, barbari vanti, onor nome tiranno, offensor di natura, a che mi stringi? Va pur Roberto, e poi che rea mi lasci, sappi tutto il mio errore, d'altri sia questa man, tu questo core. Cessa d'amarmi, o taci, e porterò lontano, se non più lieto, almen piorato il piede. Gran lusinga l'indugio e la tua fede. Parti, ti lascio, cara, amor che dal mio sen l'alma divina. Per sé